fermerò con te solo per stare a vedere in mezzo a questo pasticcio, queste urla di bisticcio che mi ha messo una mano sul sedere. Mi fermerò con te solo per un momento e poi domani me ne andrò, volerò come fa il vento, ma adesso no, perché mi fermerò con te. Mi fermerò con te solo per farmi uno shampoo, per tendere la mano e afferrar l'asciugamano da te che stai in piedi lì al mio fianco. Mi fermerò con te per una notte ancora e poi domani me ne andrò, magari di buon'ora, ma adesso no, perché mi fermerò con te. Mi fermerò con te, docile amore mio. Mi fermerò con te perché lo voglio anch'io. Mi fermerò con te solo fermerò con te. Avremo giorni belli, giorni brutti, grosso modo come quelli che hanno tutti da domani. È un vento di frontiera che ci spettina la sera, che ci screpola la pelle delle mani. E ora in paradiso sempre ammesso che c'è, nascosta in mezzo al quando e al se, mi fermerò